Sono lieto di dare la parola alla dottoressa Emanuela Trevisan Semi dell'Università di Venezia, dove è ricercatrice nel corso di lingue orientali, soprattutto appunto per l'insegnamento della lingua ebraica, e le sono grato della sua disponibilità con cui mi ha accettato subito la proposta, non solo, ma mi ha dato anche qualche buon consiglio sulla formulazione di qualcuno dei temi e sulle persone da contattare. Mi era stata messa in relazione dal professor Corsini, che insegnava presso l'Università di Venezia e che mi aveva segnalato già la preparazione di un articolo che per me è stato sensazionale e che ho appreso adesso è uscito a stampa questi giorni sulla rivista Enoch, un articolo che basta da solo a portarci la testimonianza viva di come il caso è stato sentito dall'altra parte in quei medesimi giorni. È il testo per noi inarrivabile, quasi, anche se non del tutto ignoto, è il testo di una lamentazione, Kina al Haruge Trient, una lamentazione sugli assassinati di Trento, che è veramente commovente perché dall'altra parte esprime il pianto di Rachele sui figli suoi. Questa volta non sono il piccolo Simone, come da questa parte con commozione si sentiva, ma sono invece questi assassinati di Trento. Ecco, mi ha commosso questo articolo che mi è stato passato ancora prima della sua pubblicazione e sono contento che è uscito in questi giorni proprio. Ecco, sentiremo parecchie cose nuove, tra cui qualche dato più preciso anche su quella specie di scomunica, su quel herem che si dice sia stato lanciato su Trento da parte della comunità ebraica e sul quale anche occorre riflettere. Comunque tutti sanno che è stato poi solennemente ritrattato questo herem qualche anno fa a seguito dell'abolizione del culto. Io ho avuto, lo confesso, da parte ebraica diversi segni di attenzione, di riconoscimento e di gentilezza anche umana e personale a seguito appunto della risoluzione di questo caso, e è con questo spirito che io ben volentieri sono lieto di dare la parola alla dottoressa Trevisan Semi. E le notizie che si hanno sul massacro degli ebrei di Trento provengono, come noto, soprattutto da parte cristiana, mentre su quelle che furono le reazioni da parte ebraica sulla versione ebraica degli avvenimenti scarse sono le fonti. A proposito di questo e di altri temi ancora, già Baron aveva rilevato come sfortunatamente mancassero spesso proprio le notizie contemporanee da parte ebraica. Si riteneva fino agli inizi di questo secolo che il racconto contenuto in Emek Abaha, La Valle del Pianto, un'opera pubblicata da Yosef HaKohen nel 1558, un'ottantina d'anni dopo gli eventi trentini, fosse uno dei più vicini agli avvenimenti stessi. Il racconto di Yosef HaKohen citava il nome e l'età del bambino e il nome di colui che lo avrebbe ucciso, lo scellerato Enzo. Descriveva l'episodio specificando che il cadavere era stato gettato in uno stagno, non lontano dalla casa di Shemuel, e che solo un vecchio ebreo, tra tutti i torturati, di nome Moshe, aveva rifiutato di confessare ed era morto sotto la verga. Egli dovette attingere alcune informazioni da fonte cristiana, ma altre, come quella relativa alla non confessione di Moshe, non ci risulta da alcuna fonte e può forse essere spiegata con il fatto che gli fosse giunta l'eco di un unico ebreo non confesso e morto prima della conclusione del processo, ma si trattò di una donna brunetta e non già di Moshe. Nel 1912 e nel 1949-50 furono però pubblicati due fogli diversi, rinvenuti fortuitamente e che paiono essere contemporanei agli avvenimenti. Si tratta di una Kinah, una lamentazione, e di una lettera, entrambe scritte in lingua ebraica. La Kinah al Haruget Trient fu pubblicata nel 1912 da David Frankel nella rivista edita a Budapest Atzofe le Chochmat Israel Be'eretz Agar. Frankel scriveva, senza fornire altri dati, di aver rinvenuto questa Kinah in un antico Machzor, un formulario di preghiere, e la inseriva così, senza aggiungere alcun commento e nient'altro. Il nome dell'autore della Kinah, Shlomo Alevi, è contenuto nell'acrostico del verso iniziale dell'ultima strofa, e questo autore è noto soltanto per questa Kinah. Questo testo nella Kinah veniva posto a confronto poi da Shulvas, appunto nel 49-50, con una lettera che egli pubblicava, una lettera che aveva rinvenuto in Italia, che era stata rinvenuta in Italia da Moritz Stern, il famoso Stern di cui parla anche il Divina, eccetera. La lettera era stata portata da Stern in Germania, e quindi era stata portata in Israele dal figlio di questi, Yosef. Essa era contenuta in un manoscritto della metà del secolo XVII, intitolato Sippur Azzarot Shavru Beitalia, cioè racconto delle disgrazie accadute in Italia. Però era scritta in un foglio differente, differente per grandezza e, a detta di Shulvas, più antico degli altri di almeno un secolo. Secondo Shulvas, la lettera forse era stata rinvenuta dall'autore del Sippur mentre cercava materiale per la composizione di una storia dei tristi eventi accaduti alle comunità ebraiche italiane ed era stata unita al manoscritto per un possibile utilizzo futuro. Secondo Shulvas, la Kinah e la lettera provenivano dal medesimo ambiente ed erano state composte nello stesso periodo, cioè agli inizi della tragica vicenda, ancora prima che si concludesse. Cioè, quindi, proverrebbero dall'ambiente ashkenazita, cioè giudaico-tedesco. Ho cercato di dimostrare altrove, appunto in questo articolo citato prima su Enoch, che l'autore della Kinah, Shlomo Alevi, è l'unico a chiamare Levi l'ebreo Ansel, cioè angelo. L'unico capofamiglia di provenienza italiana, proveniva da Verona, e da conoscerne anche il nome ebraico, Asher. Shlomo Alevi è anche a conoscenza del fatto che tutte le testimonianze, comprese quelle dei cristiani, avevano convenuto che Ansel non era stato presente nella casa di Shemuel, luogo del presunto omicidio rituale. E un verso della Kinah recita in effetti: Ansel a Levi, chiamato Asher, che non era collegato agli altri. Egli parrebbe dunque conoscere Ansel meglio di altri, o addirittura, essendo anch'egli un Levi, potrebbe essere stato un suo parente. Dal momento poi che Ansel Alevi, Angelus nelle fonti latine, proveniva da Verona e probabilmente il suo nome era pronunciato Anselo, Anzolo, si potrebbe pensare che l'autore della Kinah conoscesse meglio la famiglia ebraica italiana, a differenza dell'autore della lettera che dimostra viceversa di conoscere meglio gli ebrei di Norimberga, e cioè le altre due famiglie tedesche. Leggo ora la traduzione del testo completo della Kinah, e successivamente a questa quello della lettera, dal momento che entrambe non sono mai state tradotte, anche per l'interesse che può avere specialmente il primo testo, cioè quello della Kinah, in relazione alla leggenda della maledizione ebraica su Trento. Lamentazione per gli assassinati di Trento. Come rialzerò il mio capo, nella polvere mi rotolerò, nell'amarezza piangerò, per essere libero, dove andare potrò? Consolarmi come potrò. Non c'è stato balsamo nel giorno della confusione. Come potremo macinare insieme nel mortaio dolori che si protraggono e balsamo? Consolarmi come potrò. Per le calunnie del vescovo, a cominciare dai capi fino alla plebe, per rubar loro delle monete, distrussero un popolo non abbandonato da Dio. Consolarmi come potrò. Le sante comunità di Trento, i cari a Dio, insieme uniti nel martirio nel nome di Dio, sono stati misurati con la livella della distruzione e sono stati messi a rogo, arsi. Consolarmi come potrò. Il pio Zambil, detto Shmuel, offerse la sua anima al Signore, disse al capitano, non guardarmi. Perché tu non sei distrutto. Consolarmi come potrò. Risparmiami, ragazzo Israel, infierisci con forza su di me per il tuo Dio. Solo accetta che nostro figlio sia soltanto consegnato alla decollazione, o Signore. Consolarmi come potrò. Il figlio, vedendolo, si unì nella purificazione della sua opera, gridò al suo creatore, sia la mia vita al posto della sua. Consolarmi come potrò. Padre mio, gridò il figlio. Il padre gli rispose, guarda davanti a te. Ed egli capì perché le nostre colpe venissero lavate. Al direttore dei cori per la morte del figlio. Consolarmi come potrò. In un solo istante la loro anima volò via, simile a una palma fu la loro statura. Sopportarono la loro morte con amore. La parola del Signore li purificò. Consolarmi come potrò. Il mio occhio rattrista l'anima mia per Mosè che è salito al cielo. Sia il suo sacrificio come un sacrificio cruente, un olocausto. 80 anni e non aveva commesso iniquità. Consolarmi come potrò. Di questo mi consolerò. Non fu sopraffatto dal leone ruggente. Morì dolcemente come Aronne sacerdote, in prigione, in catene. Consolarmi come potrò. E dopo tutto questo lo legarono coi cappi, lo gettarono per terra, per le strade, lo misero sulla ruota, per le strade a rotolare. Consolarmi. Per il grande terrore che avevano causato, la loro abiezione si rivelò agli occhi dei popoli. Quando videro il vecchio stare sulla ruota, dissero, non stendere il braccio per ucciderli. Consolarmi, come potrò. Lo bruciarono fino a ridurlo in cenere. Sia più gradito a Dio di un toro o di un torello. Con la sua cenere siano purificate le nostre colpe, come col sangue del capro e del torello. Consolarmi, come potrò. Egli e suo figlio contro questo scrissero, accusarono, alla fine lo posero sull'altare del sacrificio, frutto del suo ventre, pieno di grazia. Consolarmi, come potrò. Ansel a Levi, chiamato Asher, che non era collegato agli altri, se non perché fu messo in ceppi. I padri peccarono e i figli mangiarono un frutto acerbo. Consolarmi, come potrò. Tobia salì al cielo e non rinnegò la gloria del cielo che abita in eterno. Molti sono quelli che lottano contro di me, o Altissimo. Consolarmi, come potrò. Come furono disperse le pietre sante, Meir e Avigdor, discendenti santi, 17 del mese, la luna del mese che ci divorò. Consolarmi, come potrò. Il 16 e il 17 di Tammuz del 1475 si levò a far perire quanto restava, a distruggere la grazia della carne. Consolarmi, come potrò. Tornarono i perfetti a riposo eterno, ci lasciarono nei lamenti e nei gemiti. Nel giorno in cui furono spezzate le tavole, la loro anima uscì, volando via. Consolarmi, come potrò. E tu, Trento, non avrai più pioggia, né rugiada. 7 volte cadrai e sarai presa. Starai sola, poiché la tua tiara ti è stata tolta, da te è stata tolta. Consolarmi, come potrò. Hanno posto i loro simboli come simboli, ma essi non compiranno mai prodigi. Confidiamo nell'adempimento dell'era prodigiosa, dacci un segno della tua bontà. Allora mi consolerò. Su di te passerà la coppa, città sanguinaria. Hai versato sangue innocente per denaro. Si è spezzato il braccio del malvagio, vendicatore, a cominciare dalla città sanguinaria. Allora mi consolerò. Confido nella roccia della mia salvezza. È salito il grido del mio sospiro. Nella rovina dei miei nemici ho visto la gioia della mia salvezza. Il giorno in cui griderò, questo è quello della mia vendetta. Allora mi consolerò. Ripagali, abbattili presto. Geloso del tuo nome, per te si leverà il Signore. Per il sangue dei tuoi servi, versato per la moltitudine di Ariel. Sarà vendicato al nostro cospetto il sangue dei tuoi servi, figli di Israele. Allora mi consolerò. Ecco ora il testo della lettera. Ai noi, siamo stati frantumati, spezzati, a causa delle nostre colpe e a causa di quelle di questa generazione si è scatenata la furia contro la comunità santa, buona e giusta, i nostri fratelli degni di rispetto della comunità di Israele che abitano a Trento. 3 capi famiglia sono stati presi per le nostre molte colpe, essi, le loro mogli, i loro bambini e tutto ciò che possedevano. Ciò è accaduto la domenica 18 di Nissan del 1475. Senza che le loro mani si fossero macchiate di nulla di immorale. In modo immorale invece si comportarono gli uomini malvagi della città peccatrice, i Goim che abitano a Trento. Hanno ucciso un bambino di un altro Goi, vicino di casa di uno dei capi famiglie ebrei. Questi era il santo, rispettabile e sapiente Rav Zanvil, figlio di martiri. Il Signore, sempre sia benedetto, vendichi lui e tutti gli altri santi che sono morti con lui nel martirio, in nome di Dio. Gli stessi Goim, sia il loro nome cancellato, che uccisero il bambino, lo gettarono morto in un canale che passa in mezzo alla cantina, che appartiene al medesimo santuomo. Quando gli stessi ebrei andarono in cantina e trovarono il bambino gettato in mezzo al canale nella cantina, subito corsero a raccontarlo al vescovo, il governatore della città, un uomo malvagio e falso. Fu egli la causa di tutto ciò e lo fece per assalire gli ebrei che abitavano nel suo dominio, per impadronirsi del loro corpo e dei loro averi. Infatti li prese nel giorno più sopra ricordato, gettando nell'afflizione 9 persone e tra esse una donna importante. Li torturò a un punto che non si era mai visto né udito dal giorno in cui fummo sulla terra fino ad oggi e voglia il cielo che non si veda né si senta mai più, perché sarebbe troppo da raccontare. Tra essi vi era un vecchio di 80 e più anni che terminò la sua vita per le troppe torture. Il suo nome era Rav Moshe, figlio di martiri. 18 persone furono prese e obbligate con molte torture impossibili da tollerare a confessare le menzogne che si voleva fossero dette e a giurare tutto quanto veniva detto loro dai malvagi e dai loro servi. Essi erano il Rav Zanvil Bach e suo unico figlio, il Rav Meir, figlio unico a suo padre, il Rav Moshe, sia la sua memoria benedetta, ricordato più sopra, il Rav Tuvia, il medico, e il loro servo, un giovane bello e buono d'aspetto, il cui nome era Rav Avigdor, figlio del nostro maestro Yosselain di Norimberga, sia la sua memoria benedetta, il Rav Ansel, un uomo forte e molto attivo. Tutti questi hanno subito il martirio nel nome del Signore, hanno terminato la loro vita con una morte dura e si hanno sopportato tutto ciò per amore del Signore, sempre sia benedetto, e furono bruciati di mercoledì e di giovedì, il 16 e il 17 di Tammuz, un giorno di disordine e confusione. La donna, degna di ogni considerazione, non volle confessare una menzogna, dicendo che si trattava di verità, e sopportò torture impossibili da narrarsi. Il nostro Signore, sia egli benedetto, li vendichi in fretta, oggi stesso, e dia soddisfazione al suo popolo Israele in giusta misura, cioè con la salvezza e la misericordia. Un esame di questi documenti ci permette dunque di ricavare un certo numero di informazioni. Sia la Kinà che la lettera attribuiscono la causa della tragedia al desiderio del vescovo di impossessarsi degli averi degli ebrei, come del resto anche l'autore di Emek Abaha aveva sostenuto. Entrambi i documenti narrano di torture indicibili e incredibili e di confessioni estorte con questi sistemi e concordano sulle date degli accadimenti. La lettera accenna ad una donna degna di rispetto che non ha confessato e che sappiamo dalle fonti latine essere brunetta. Tuttavia, pare che l'autore della lettera non sia a conoscenza della di lei conversione. Secondo Schulwass, la lettera sarebbe stata scritta quindi prima della conversione di Brunetta, e cioè in un'epoca vicina alla prima fase del processo. L'autore della Kinà tace su questo, ma del resto tace anche, e così l'autore della lettera, sui due Bonaventura, convertiti e decapitati il giorno 23 giugno e quindi il giorno successivo alla morte di Meir e Vitale. È chiaro dunque che volutamente nessuno dei due autori nomina i convertiti. L'autore della lettera potrebbe aver scritto il testo prima dell'autore della Kinà e quindi prima della conversione di Brunetta, oppure, e non escluderei del tutto anche questa ipotesi, era a conoscenza di un'altra versione sulla moglie di Samuele. È il caso infatti di sottolineare che la storia di Brunetta è assai poco chiara e quindi scarsamente indicativa. Il fatto che unica fra tutti non abbia confessato una colpa non commessa la dovette porre in una luce particolare agli occhi di chi fece il processo. Ragion per cui fu forse trovato un modo, come suggerisce anche la Tessadri, per farla apparire pentita seppur non confessa e convertirla al momento in cui fu data notizia della sua morte, della quale comunque non fu specificato il motivo. E non è detto che tutti gli ebrei dell'epoca debbano aver creduto a questa strana storia di conversione, seppur bene architettata. Chi ha scritto i due testi pare conoscere bene le persone nominate. L'autore della Chinà conosce meglio Ansel e quindi la famiglia italiana. L'autore della lettera, gli ebrei di Norimberga. Vengono aggiunti aggettivi per qualificare le prerogative dei diversi protagonisti della storia. Vengono completate parentele e genealogie. E le date sono molto precise. Anche il giorno della settimana è specificato. Ed esse coincidono nei due documenti. Entrambi i fogli paiono riferirsi al periodo successivo alla prima fase del processo, perché non ci sono accenni al periodo relativo alla ripresa del processo. Tra l'altro, entrambe le fonti non dicono né il nome né l'età del bambino, ed è probabile quindi che all'epoca in cui furono scritte, questi non fosse ancora divenuto il famoso San Simonino. Shlomo Halevi però accenna a simboli e prodigi e potrebbe quindi aver scritto la Kinà in un periodo successivo a quello della composizione della lettera. Desidero ora soffermarmi su un tema che si trova nella Kinà e non nella lettera, quello che tratta delle maledizioni su Trento. Le quattro ultime strofe della Kinà sono caratterizzate dal refrain «Allora mi consolerò», mentre le precedenti recitavano «Consolarmi come potrò». Questo cambiamento si giustifica con il fatto che nella quintultima strofa Shlomo Halevi si rivolge alla città di Trento, annunciando una serie di sciagure alla città sanguinaria e invocando l'intervento del Signore che vendicherà il sangue dei suoi servi. Certamente, se si ipotizza che questo testo, o parte di esso, fosse noto tra le comunità ebraiche e fosse recitato come uso in tali comunità per il 9 di Av, o per Kippur, tra l'altro l'inizio di questa Kinà ricorda molto la Selichah per la Musaf a Kippur, e quindi è probabile che venisse letta per esempio per il periodo di Kippur, si può quindi immaginare che l'esistenza di queste maledizioni possa aver contribuito a dar credito o a favorire il sorgere o la circolazione della leggenda su un presunto harem lanciato contro Trento dai rabbini, dal momento che effettivamente, anche durante il rituale dello harem, vengono lanciate maledizioni all'indirizzo dello scomunicato. Ma è forse opportuno, per l'interesse che può rivestire qui a Trento il fantasma dello harem, chiarire alcuni particolari al riguardo di questo rito e, per ciò che concerne Trento, prendere in considerazione quel poco che è possibile sapere dalle fonti ebraiche. Lo harem, in ebraico letteralmente separazione, era un termine associato già nel Talmud all'uso delle maledizioni. In epoca medievale le maledizioni venivano lanciate all'indirizzo del mohram, lo scomunicato, al suono dello shofar, il corno rituale, tenendo in mano la Torah e i tefillin, i filatteri. Lo harem era l'estrema misura disciplinare presa dalle autorità rabbiniche contro il trasgressore irriducibile, una sorta di scomunica. Il testo dello harem veniva messo per iscritto nelle shelot shuvot, nei responsa, e firmato da uno o più rabbini a seconda degli usi delle diverse comunità. Per toglierlo era necessario riunire un numero pari di suffragi a quelli che lo avevano imposto. Non era neppure obbligatorio che fossero rabbini, potevano essere i tove air, i notabili, ma in Italia, come ha fatto notare Bonfil, per l'influenza dell'ambiente cattolico, lo harem era considerato questione pertinente ai rabbini e non alle comunità o ai notabili delle stesse. Per quel che riguarda lo harem su una città, che si chiama lo harem a Kahal, un equivalente dell'interdetto, esso poteva essere decretato contro una città o un intero paese che avesse espulso gli ebrei e appunto interdiceva ad ogni ebreo, sotto pena d'essere scomunicato, di andarci o fissarci la residenza. Il rabbino di Nachod, Wisner, nel 1864, scriveva che qualora gli ebrei si fossero venuti a trovare nella condizione di dover soffrire o subire vessazioni a causa della loro religione in un determinato luogo, al punto da doversene andare o esserne espulsi, doveva essere proclamato uno cherem. Tale cherem, tuttavia, sarebbe dovuto durare solo per il periodo in cui le autorità ostili agli ebrei fossero rimaste al potere. Se infatti col tempo si fosse venuto a creare un clima più propizio, sarebbe stato irragionevole rendere inaccessibile agli ebrei un luogo in cui trovare rifugio. Wisner aggiungeva anche che del resto lo scrupolo degli ebrei era tale che essi addirittura rifiutavano di abitare una città che avesse anche solo portato un nome simile a quello della città sottoposta a cherem. Uno cherem a Kahal fu ad esempio decretato contro Ancona nel 1554, allorché il Papa Giulio III ordinò il rogo del Talmud in quella città. In quell'occasione, ad esempio, gli ebrei di Ancona si trasferirono a Pesaro. Sulla base di quanto più sopra esposto, sarebbe stato dunque perfettamente legittimo attendersi dalle autorità rabbiniche italiane un decreto di cherem su Trento. Le autorità rabbiniche tedesche difficilmente avrebbero potuto farlo, tant'è vero che esse già si erano rivolte da Norimberga, dove erano raccolte in un sinodo, a Rav Yosef Kolon, noto come Maharik, di Pavia, perché emettesse uno cherem contro gli ebrei residenti in Germania che non si attenevano a tutte le decisioni prese per difendersi dalle ripercussioni che i fatti di Trento avevano avuto in Germania. I rabbini di Germania erano impossibilitati a prendere questo provvedimento a carico dei loro correligionari per timore delle reazioni dei governanti e dei principi locali. Ma ciò dimostra che Rav Yosef Kolon avrebbe certamente avuto l'autorità e il coraggio necessari per decretare uno cherem anche contro Trento. In realtà un decreto di cherem su Trento non risulta in alcun modo nelle fonti ebraiche. È vero che la consulta rabbinica italiana, composta dai rabbini Laras, Sierra e Toaf, riunita a Roma il 1 febbraio 67, ricordò lo cherem, decretato a suo tempo dai rabbini contro la città e il territorio di Trento, e constatando che ormai era cessato in Trento il culto di San Simonino, proclamò solennemente decaduto l'interdetto, lo cherem, sulla città di Trento e sul suo territorio, permettendo quindi, senza restrizione alcuna, agli ebrei d'Italia e di ogni paese di prendervi residenza stabile e di svolgervi ogni genere di attività. Ma è anche vero che ai rabbini della consulta, da me interrogati a riguardo, non era nota alcuna fonte scritta, ma soltanto una leggenda o una tradizione trasmessa oralmente. E così del resto anche la voce Trent fatta da Simonson nella Giudaica si parla appunto di leggenda nella stessa maniera. Questa recente decisione rabbinica può essere vista dunque piuttosto come una decisione attuale pro bono pacis che come una cancellazione di un qualche ditto di cui non si ha alcuna notizia storica degna di fede. Assai documentati, invece, sono i diversi bandi, a cominciare proprio da quello di Hinderbach, che furono pubblicati per proibire agli ebrei di risiedere a Trento. La proibizione di risiedere a Trento, non già per uno cherem, quanto per decisione dell'autorità locale, è ricordata tra l'altro da molti storici ebrei e testimoniata anche da un famoso cabalista e viaggiatore ebreo di Gerusalemme, Haim Azulai, noto come Hida, che tra il 1753 e il 1758 visitò diversi paesi, tra essi l'Italia. Egli riferì nel suo diario di viaggio, Sefer Ma'agal Tova Shalem, il libro completo del Buon Cammino, dell'avventura accadutagli proprio a Trento. In questa città e nei suoi territori è opportuno ricordare nel 1725 e nel 1731 era stata nuovamente bandita la nazione ebraica e obbligata, nel caso vi si fosse trovata di passaggio, ad indossare cappelli coperti di stoffa gialla. Nel suo diario Azulai racconta di essere stato dunque consigliato dagli ebrei di Verona viste le regole vigenti a Trento contro gli ebrei, di non pernottare in tale città, ragion per cui egli pregò il vetturino che lo accompagnava di evitare di trovarsi a Trento sul far della sera. Il malvagio vetturino fece però in modo di essere a Trento proprio a mezzanotte e di portare a pernottare il viaggiatore ebreo in una locanda nella quale fecero prontamente irruzione gli sbirri. Il malcapitato cabalista ebreo fu condotto dal principe vescovo e da questi ottenne, dopo un interrogatorio minuzioso, la libertà al prezzo di 13 monete d'oro. Questa testimonianza ci dimostra come fosse cura degli ebrei di Verona di informare i correligionari di passaggio del bando che interdiceva loro il pernottamento a Trento, ma ci informa anche come non venisse in alcun modo menzionato uno harem. Sebbene si sappia da alcune fonti che talvolta qualche permesso di residenza veniva accordato a singoli ebrei, come ad esempio nel 1516 a Emanuel, figlio di Sansone, per interessamento dello stesso imperatore Massimiliano, è significativo che ancora nel 1864 e nel 1803 erano stati riammessi gli ebrei a Trento gli ebrei non ci fossero e ancora nel 1880 ve ne fossero solo due, secondo quanto riferisce Biedermann. Il rabbino di Hohenems, Tanzer, autore dell'opera Juden in Hohenems e curatore della voce Trient per la Jewish Encyclopedia, scriveva nel 1901 che a quell'epoca parecchi mercanti ebrei si erano stabiliti a Trento, ma che, non avendo essi la possibilità di seguire le funzioni religiose in quella città, come accadeva del resto anche ad altri ebrei del Tirolo, facevano parte della comunità di Hohenems nel Vorarlberg. In base dunque alla documentazione esistente, si può affermare che la proibizione di risiedere a Trento fu formulata da parte delle autorità di Trento, ma non da parte degli ebrei, nonostante che, in base alla legislazione ebraica, uno harem contro la città di Trento sarebbe stato assolutamente legittimo. Si può viceversa sostenere che la leggenda dello harem su Trento è proprio solo una leggenda, perché l'unico documento storico a noi pervenuto e contemporaneo agli avvenimenti che possa, per il largo uso delle maledizioni, essere collegato ad essa, la Kinah al Harugah Trient, la lamentazione sugli assassinati di Trento, non è un testo di interdetto, ma solo un testo di commemorazione appartenente ad un genere poetico ben definito. Grazie per questa bella relazione che ci arricchisce di dati nuovi, sempre troppo poco tenuti in considerazione dalla nostra parte e quindi tanto più rari e preziosi. Quanto al Harem, senza dubbio l'indagine è degna di attenzione. Direi che non sminuisce per niente il valore di quella specie di ritiro del Harem che ha egualmente un suo significato simbolico di piena volontà di riconciliazione degli animi, vero, a prescindere dalla autenticità o meno, che sia storia o leggenda il Harem in se stesso. Noi l'abbiamo apprezzato e accolto appunto nel suo significato attuale.